Periferie. Mio padre è nato in questo quartiere e purtroppo c'è caduto anche lui. E io non vorrei rimanere come lui. A me piace giocare a calcio e stare insieme alla mia squadra. Per me come fosse la mia famiglia. Ti va di dirmi in che modo pure tuo papà era caduto in questo sistema? Allora, mio padre è caduto in questo sistema, lui il suo mestiere è ferraiolo, però siccome le cose non andavano bene è caduto anche lui dei problemi della strada. Se entri in questo giro non puoi uscire più. Qual è il giro? Il giro di droga. Anche prima di andare in carcere diceva no, non prendete la mia strada, infatti ci mandava sempre a scuola. Sono un sacco di ragazzi che hanno genitori in carcere. Sì, quasi tutti i miei amici. Che vorresti fare da grande? Calciatore. Anche in Serie C sarebbe bello. Luigi! Prega! Salvatore ha 15 anni e un sorriso aperto. Con in testa solo il pallone, corre con inesauribile grinta verso la porta. A colpi di gol vuole riscattare se stesso, Salvatore. L'ha promesso a suo padre che dal carcere scriveva lettere al mister dell'Arciscampia per affidarglielo, perché stesse lontano dalla strada dove lui, invece, era finito per diventare operaio di malavita. Così Salvatore al mattino fa il barista e al pomeriggio si allena fino all'ultimo minuto valido, soprattutto ora che lui e gli altri tantissimi ragazzini, grazie all'aiuto anche di privati come la Fondazione Vodafone Italia, hanno un centro sportivo nuovo di zecca. Il mio sogno è diventare calciatore, come l'Avezzi, come tutti. Tu vieni ogni giorno ad allenarti qui? Sì. Com'è vivere in questo quartiere? Non si può stare in mezzo alla strada, devi fare la tua scelta. Vai a scuola? Sì, ho finito la scuola. Che hai fatto? La terza media. In questo quartiere ci sono delle persone, anche i tuoi coetanei. Come riconosci il fatto che hanno scelto un'altra strada rispetto alla tua? C'hanno quei atteggiamenti un po'... Un esempio, io ti uccido, io c'ho i soldi. Ma tu c'hai i soldi, però dopo vai a finire o in carcere o puoi morire. Io ho scelto di un'altra strada. Gira molta droga da queste parti? Sì, si vede anche in mezzo alla via che spacciano. Poi anche per esempio nel palazzo mio spacciano. Stavo giocando a calcio e hanno sparato dove noi stavamo giocando. Se posso realizzare il mio sogno, prendo tutta la mia famiglia e me la porto. Anche dei miei amici di 15 anni hanno scelto questa vita, già hanno le armi, lo spacciano, minacciano la gente con le pistole. Tu l'hai visto Gomorra? Sì. Com'è? Non mi piace. Perché non ti piace? Che ci sono le sparatorie, cose. I bambini vedono il film e non è un buon esempio. Il film l'ha fatto anche un mio amico. Adesso c'è la metropolitana. Spesso non me la faccio qui, a Napoli, a Piazza Dante, museo. Faccio nuove amicizia con le ragazze, qua non si può stare. Di camminare diritto, torno a casa e quindi guardo poco poi quello che mi circonda, perché non è una cosa che mi piace. Per cui cerco di non dare proprio attenzione né di farla dare ai miei figli. Io nascondo tutto a loro, per cui se passa il drogato dico magari un signore che si sta sentendo male, che sta andando all'ospedale, cioè non gliela voglio dare questa realtà, anche se forse è sbagliato, io preferisco non farglielo sapere. E se posso evitare, non farglielo sapere mai. Come in un gioco, questa madre trasforma i mali del quartiere in favole con un vicino lieto fine e il paese dei Balocchi è un centro sportivo dove si ripetono piccoli grandi miracoli di integrazione. Così Steffi, bimbo rom del campo nord della città, viso color cioccolato e accento napoletano, ha ripreso ad andare a scuola pur di poter entrare nella squadra. È bello stare con gli amici. Che classe fai tu? La prima media. Ci vai a scuola? Sì. È capitato mai qualche volta che per tanto tempo non ci andavi? Sì, sì, ma 3 mesi così. E perché? Non ci andavo. E mo che sto seguendo il calcio, ci vado a scuola. Perché qua è obbligatorio? Sì. Quindi se non vai a scuola? Niente calcio. E dov'è che abiti tu? Nella baracca, nel campo abito. Ci sono i miei zii, i miei zie. Cos'è che non ti piace? Vivere nelle baracche che fa freddo. Entrano gli animali in casa, casomai? Sì, sì. No, i cani, altre cose. Ho visto che ce ne stanno diversi di campi. Sì, ce ne sta uno? C'è sotto il ponte, c'è dentro, c'è sulla rotonda. E sono tutti legati a famiglie diverse oppure a paesi diversi? Sì, alcuni sono paesi diversi. Mio papà è macedone, mia mamma è croata. Anche tu vuoi fare il calciatore come professione? Sì, però non solo il calciatore, il medico, l'ingegnere. Ti piace studiare? Sì, molto. Mi spiegate perché dei ragazzi che sono seduti sui motorini non si staccano mai, anche se devono parlare con una ragazza, per dire. Si sentono più importanti, dammi i soldi, il telefonino, in cui danno paura e basta. E anche dentro le ville ci sono dei campi? Sì, ma sono malandati. E poi non ci passa neanche la luce. Brutta zona, cioè preferiscono non andarci. Li dovrebbero abbattere? Sì, però c'è gente dentro, cioè dove vanno ad abitare? C'è buona gente come cattiva. C'è abbastanza controllo in questa zona, anche di polizia, di carabinieri? Non molto. La scuola qua a Napoli non è che è molto frequentata. Secondo me là ci cambia, è tipo come un nonno che ti può aiutare. Uno potrebbe andare a scuola e giocare a calcio, no? Sì, però qui a Scampia è un po' difficile. È obbligatorio andare a scuola? No, perché vogliono tutto un fatto di soldi. Allora cercano un guadagno più facile. Ma perché a 12 perché... anni, a 13 anni, a 14 già vogliono i soldi? Che devono farci? Si vogliono fare come si dice, vanno a fare brillo, cioè vogliono la camicia firmata per far vedere che loro sono grandi, ma in realtà appena vedono la morte tutti si mettono paura. Che si comprano? Adesso c'è la moda di camicia e un maglioncino sopra, un jeans e un paio di scarpe, diciamo, sempre firmate Nike. Per esempio, se ti compri un altro paio di scarpe ti escludono. Diresti che in qua ci venissero anche altri ragazzi? Però non vengono perché hanno paura, dicono che Scampia è malfamata, però a giocare vengono. Quando sono venuti Ferrara e Cannavaro li hai incontrati? Sì, sono salito anche sul palco, è stata una grande emozione vedere a Ferrara. E gli ho detto, se era possibile salutarlo, lui mi ha dato la mano. È stata un'emozione che secondo me non dimenticherò per tutta la vita, perché toccare proprio quella mano che ha alzato la Coppa del Mondo, non è che è poco. Ciro Ferrara, com'è stato incontrare i ragazzini di Scampia? È sempre una forte emozione comunque incontrare dei ragazzi che vogliono vivere questo sogno, a maggior ragione quando si tratta comunque di un quartiere così difficile come Scampia, dove senz'altro lo sport può essere un veicolo trainante affinché questi ragazzi possano avere degli altri obiettivi. Il giorno dell'inaugurazione del nuovo centro sportivo, il più felice di tutti era Giuseppe Piccolo, cappellino in testa e un incoraggiamento per ognuno dei suoi campioni. Da 23 anni è il presidente della squadra, l'Arci Scampia. Lui che è nato nel quartiere Cartolina di Napoli, Posillipo, è sbarcato per caso nella periferia, simbolo dei problemi della città, e invece di scappare si è rimboccato le maniche in nome di quei bimbi dagli occhi lucenti che rischiano di essere schiacciati dalla maledizione di Gomorra. È difficile da descrivere, tanto era il senso di distruzione, tanto era lo squallore. Vederlo adesso così bello è un motivo d'orgoglio, ma non solo, diciamo così, è anche la dimostrazione che se c'è la volontà è possibile fare delle cose positive. Quando abbiamo fatto richiesta al comune, il comune ci ha assegnato questo centro, abbiamo avuto degli aiuti importanti da parte della regione, da parte della compagnia San Paolo di Torino, la fondazione Banco di Napoli, ci hanno consentito poi di realizzare un progetto importante con la fondazione Cannavaro Ferrara, la fondazione Vodafone. Cosa c'era prima? Era diventato ricettacolo di rifiuti, c'era un sacco di siringhe, motorini abbandonati, l'abbandono più totale e il vandalismo più gratuito, diciamo così, è una struttura che era stata abbandonata e che quindi era stata distrutta. E adesso questo centro con due campi di calcio e un campo di bocce e un altro poi di basket ancora in fase di completamento, ecco, che cosa rappresenta per questo quartiere? Io mi auguro che rappresenti un punto di riferimento, non solo sportivo, ma io immagino che qui d'estate la gente si ritrovi, si venga a prendere un po' di fisco, un caffè e stare insieme. Lo facciamo diventare un posto normale in un quartiere che ambisce ad essere normale. A poche centinaia di metri da percorrere rigorosamente in auto, perché nessuno va a piedi. Qui sulla 167, la strada chiamata col numero della legge sull'edilizia popolare, esulta poco davanti alle nuove costruzioni il sacerdote storico di Scampia. Seduto nell'ufficio della sua parrocchia con le sbarre alle finestre, Don Vittorio Siciliani ha il viso stanco di chi ha combattuto tante battaglie. Lui da 40 anni è il punto di riferimento di tutti. È entrato entrato in cucine con le foto incorniciate dei ragazzini defunti. Ha visto intere famiglie lasciare le case durante l'ultima faida. Si è fatto sentire con le autorità in questi anni, Don Vittorio, per cercare di portare Napoli in questa periferia, ma ora, ammette, esco poco perché non so più cosa rispondere alle richieste della gente onesta. Penso che sia un debito che dopo tanti anni l'istituzione ha assolto. Un segnale positivo sarebbe un edificio, un'occasione, un qualcosa per cui valga la pena di venire a Scampia. E l'unico motivo per cui si viene a Scampia è il mercato della droga. Il motto che io almeno ho in testa è che Napoli non è Scampia, ma Scampia è Napoli. Si ha sempre un po' l'impressione che qui, come avamposti di un mondo diverso, siate lasciati un po' voi, la chiesa, i volontari. Sì, sì. Finché ci furono i primi insediamenti corrispondono agli arrivi per il terremoto, ci fu uno spirito di conquista vera e propria di questo nuovo territorio. Poi però, nell'abbandono in cui si viveva, cominciarono a emergere le potenze camorristiche malavitose e allora è diventato impossibile un riscatto, una speranza. E molta gente si è adattata a questa idea. Per tenermi la casa, perché non me la depredino, devo mantenere la roba in casa, lo faccio, il rischio c'è, ma loro poi mi metteranno gli avvocati. Non so che cosa succederà, ma mi sono garantito almeno 3 o 4 anni di apparente sicurezza. Abbiamo visto anche genitori onestissimi, li abbiamo visto cedere interiormente, diciamo, soprattutto che si ribellano, lottano. Questi sono i santi di Scampia, questi che continuano a dire ai figli: rimaniamo e lottiamo, non vi arrendete. In certi palazzi, in certe realtà come quella delle Vele, doppie porte per tutti, la pulsantiera dell'ascensore cancellati, bruciati, perché non devono sapere tu a che piano stai andando, perché lì c'è uno che sta per fuggire, o quando l'ingresso in un palazzo è nelle mani di un ragazzino. Erano delle vedette. Sì. Al di là delle grati della parrocchia, però, i pavoni fanno la ruota e il cinguettio dei canarini è come un arcobaleno insperato. Giratosi verso Don Alessandro, l'ultimo sacerdote arrivato, Don Vittorio lascia che un timido sorriso di speranza si schiuda sul suo viso segnato. Presto arriverà la stagione di portare anche i bimbi di Scampia al mare di Napoli. Si chiude qui questa prima puntata di Periferie insieme a Fondazione Vodafone Italia. Nel prossimo appuntamento, sabato alle 13:30, andremo a Milano. Buona giornata.